البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. 160esima trasmissione su Radio Wombat. Anche oggi, come nella trasmissione scorsa, parliamo di scuola, ma non di scuola in Italia, bensì di scuola in Palestina, perché in Palestina l'educazione non è solo apprendimento, ma costituisce anche una forma di lotta non violenta. Tali sono infatti le difficoltà che l'occupazione oppone agli studenti di ogni ordine e grado, che ogni aspetto dell'educazione comporta un momento di contrapposizione e lotta contro l'occupante. Ciò vale dai percorsi per recarsi a scuola, al contenuto dei libri di testo, alla qualità degli insegnanti, all'orario scolastico e per ogni altro aspetto degli studi. È questo un argomento del quale si è parlato presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, in una sigla SAGAS, dell'Università di Firenze, con Bashar Haddad, una giovane palestinese di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Bashar fa infatti parte del movimento YAS, Youth Against Settlements, Giovani contro gli insediamenti, ed è stata ospite di Assopace Palestina nella sua breve visita a Firenze. In questa occasione ha risposto alle molteplici domande poste dai nostri studenti. L'ascolteremo nell'intervista di Claudio. Al Teatro Miela di Trieste la Fondazione Lucchetta premia Francesca Albanese. Da 17 anni il premio raccoglie e condivide centinaia, migliaia di reportage che arrivano dalle latitudini più estreme del pianeta, spesso a rischio della sicurezza di chi le realizza. È l'infanzia, da sempre, la missione della Fondazione Lucchetta, OTA, d'Angelo Crovatin, dedicata ai diritti dell'infanzia. Quest'anno il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta è stato conferito anche a Francesca Albanese. Ascolterete alcuni interventi nella giornata della premiazione. Le massime autorità della locale comunità ebraica hanno protestato con una lettera di insulti pubblicata dal quotidiano Il Piccolo. La presidente della fondazione ha risposto in modo impeccabile, senza nemmeno citarli. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve stacco musicale. Dal manifesto del 18 novembre, un articolo dal titolo «Il coordinamento tra Israele e USA, il coordinamento copre gli attacchi su Gaza», un articolo di Michele Giorgio. La struttura che dovrebbe monitorare la tregua tra Israele e Hamas è in realtà stata concepita per azioni militari a Gaza. L'attacco aereo che ha ucciso Alaa Hadidi, dirigente del movimento islamico, è stato coordinato da quel centro. Mentre il coordinamento funziona al servizio di Israele, gli aiuti umanitari stentano ad entrare nella striscia a causa delle restrizioni israeliane. Si registra l'assenza totale dei palestinesi dalle decisioni che li riguardano. Anche le rappresentanze internazionali sembrano solo comparse in un teatro di guerra dove tutto è già studiato e deciso solo da Israele. da una testimonianza diretta di un funzionario della cooperazione europea. Questo è il quadro che viene delineato all'interno di questo comitato di coordinamento, dove la rappresentanza dei paesi arabi e occidentali è solo simbolica. Per l'Italia c'è l'ambasciatore Andrea Comussi. È un ambiente totalmente militarizzato, ha proseguito il funzionario che vuole rimanere anonimo. In un incontro organizzato all'improvviso, ad un certo punto, ha preso la parola un militare israeliano. Tra le altre cose, ha dichiarato che la ricostruzione del sistema educativo a Gaza potrà avvenire solo con l'esclusione anche dell'autorità nazionale palestinese e che le nuove generazioni dovranno crescere senza nutrire ostilità verso Israele. E per raggiungere questo scopo ha detto che sarà obbligatorio cambiare completamente i programmi scolastici, riscrivere i manuali in uso dai ragazzi palestinesi e rimuovere qualsiasi contenuto che a loro giudizio possa incitare all'odio. Un discorso che ha suscitato immediato disagio tra molti presenti, consapevoli che le devastazioni e le uccisioni di massa inflitte negli ultimi 2 anni ai minori di Gaza non potranno facilmente cambiare le opinioni. Alcuni operatori umanitari internazionali hanno dichiarato che i militari statunitensi inizialmente avevano creduto alla narrazione del governo israeliano, secondo cui la responsabilità del problema della distribuzione degli aiuti a Gaza sarebbe da attribuire all'ONU e ad Hamas. Poi hanno compreso che l'ostruzionismo israeliano è il problema principale e che il problema non è logistico, ma politico. Da Il Piccolo di Trieste del 16 novembre. Autori Alessandro Salonicchio, presidente della comunità ebraica di Trieste, e Eliyahu Alexander Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, le più alte cariche e esponenti della comunità ebraica di Trieste, pubblicano una lettera aperta indirizzata alla presidente Daniela Schifani Corvin Lucchetta in merito al conferimento del premio speciale della Fondazione Lucchetta Ota ad Angelo Hrovatin del 2025 a Francesca Albanese. Esprimono stupore e rammarico per la decisione della Fondazione di conferire questo premio speciale a una persona che ritengono falsa, incitante all'odio e soprattutto portavoce dei terroristi di Hamas. Secondo gli autori dell'articolo, Francesca Albanese non ha mai riconosciuto i fatti del 7 ottobre. Secondo loro, Francesca Albanese nasconderebbe il suo antisemitismo sotto l'antisionismo. Francesca Albanese, secondo quanto scritto in questo articolo, non ha mai condannato l'attacco del 7 ottobre e mai mostrato pietà per le privazioni e le barbarie inflitte agli ostaggi. Le massime autorità della comunità ebraica triestina si attaccano ancora una volta alla falsa notizia diffusa subito dopo il 7 ottobre della spietata fine dei fratellini Bibas, per mano degli spietati terroristi di Hamas, notizia smentita dagli stessi genitori. I veri colpevoli delle vittime di Gaza, per le autorità ebraiche triestine, non sarebbero opera dell'IDF ebraico israeliano, ma dell'utilizzo della popolazione come scudo umano da parte dell'organizzazione terroristica di Hamas. Con questo gesto, col conferimento di un premio a Francesca Albanese, secondo le massime autorità triestine, la fondazione non solo non avrebbe contrastato l'antisemitismo, ma lo avrebbe onorato con un premio. Chiara e limpida la risposta della presidente della fondazione, a difesa dei diritti umani, da sempre perseguiti dalla nascita di questa fondazione, il cui intento è quello di difendere il principio basilare su cui si fonda l'Unione Europea. Il premio serve a dar voce a chi non ce l'ha, a persone che nella loro realtà non hanno diritto alla vita e alla cura, e per primi i bambini di qualsiasi paese, etnia e religione, che avrebbero diritto alla cura, all'amore, alla vita, e invece sono vittime di massacri, come denunciato da Francesca Albanese. Massacro che la Commissione Speciale dell'ONU il 16 settembre del 2025 ha definito genocidio. Dobbiamo difendere il lavoro per la ricerca della pace, come quello svolto dalle Nazioni Unite attraverso le sue istituzioni, lavoro che chi agisce attraverso la violenza vorrebbe cancellare. L'autrice cita il lavoro di Francesca Albanese come il grido di allarme sulla perdita di credibilità del diritto internazionale, diritto sul quale si è fondata dopo il 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Infopal un articolo dal titolo «Le IOF irrompono nelle università di Birzeit e minacciano il blocco islamico». A Ramallah le IOF hanno sfondato i cancelli dell'università di Birzeit con veicoli militari e soldati, aggredito 5 membri della sicurezza dell'università lasciandoli feriti. All'interno hanno saccheggiato strutture universitarie, distrutto esposizioni del movimento studentesco, strappato striscioni a sostegno di Gaza e dei martiri, confiscato bandiere e minacciato direttamente il blocco islamico, braccio studentesco di Hamas. Diverse facoltà sono state perquisite e all'interno del teatro sono stati vandalizzati murales che raffiguravano la distruzione delle istituzioni accademiche a Gaza. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان. L'educazione come forma di resistenza non violenta in Palestina. Ce ne ha parlato Bashir Haddad, una giovane del movimento YAS, Youth Against Settlements, Giovani contro gli insediamenti, venerdì 21 presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, il SAGAST, dell'Università di Firenze. Le abbiamo chiesto, per prima cosa, dove ha studiato e quali difficoltà ha incontrato. Ed ecco che cosa ci ha risposto. I studied at Birzeit University, which is a university located in Ramallah, a village near Ramallah. It's 2 hours away from my city. Un'università situata vicino a Ramallah, a 2 ore di distanza dalla mia città, che è Hebron. Ho voluto parlare oggi dell'istruzione in Palestina sotto l'occupazione israeliana, dove abbiamo molte difficoltà, soprattutto a causa della presenza di posti di blocco che hanno reso gli spostamenti verso la mia università molto più difficoltosi. Il viaggio per raggiungere questa università prima richiedeva 2 ore, ora ci vogliono quasi 5 ore. E ai posti di blocco di solito si subiscono abusi verbali o fisici o entrambi da parte dei soldati israeliani. Free, free, free. يسوعك نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين. L'incontro presso il Dipartimento Sagas, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università degli Studi di Firenze, è stato intensamente partecipato con un susseguirsi di domande da parte dei numerosissimi studenti presenti. L'incontro si è svolto in inglese. Chiediamo all'organizzatrice Margherita Pascucci una sintesi. Ma chi è Margherita Pascucci? Margherita Pascucci è filosofa, dopo studi e docenze all'estero, New York, Berlino, Londra e Dhaka in Bangladesh, vive attualmente a Firenze. È docente a contratto per il corso Etica e Società dell'Informazione presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato varie monografie, tra cui Potenza della Povertà, Marx, Legge Spinoza, in italiano, inglese e farsi, Causa Sui, Saggio sul capitale e il virtuale, Macchina capitale, genesi e struttura dello sfruttamento, Philosophical Reading of Shakespeare e ancora Il pensiero di Vladimir Benjamin, un'introduzione, Il tempo tessuto di Dio, ritratto filosofico immaginario di Dacia Maraini. Ha inoltre pubblicato varia prosa e poetica che potete trovare sul sito di accademia.edu. Ha vissuto, lavorato e insegnato per un anno a Betlemme in Palestina. Ascoltiamo Margherita Pascucci. L'incontro presso il Dipartimento Sagas è stato intensamente partecipato con un susseguirsi di domande da parte di studenti molto numerosi e l'incontro si è svolto in inglese e chiediamo all'organizzatrice Margherita se ce ne vuole fare una sintesi. Sì, buongiorno. Bashar Haddad, che veniva da Hebron, era la sua prima volta in Italia e fa parte di YAS, Youth Against Settlements, ha parlato per 2 ore ininterrotte con un intervento molto interessante. Ha parlato soprattutto del sistema educativo in Palestina, facendo prima una disamina storica, diciamo, da quando l'università, soprattutto di Birzeit, che lei ha frequentato, è stata fondata, quante volte negli anni è stata chiusa, per esempio dal 73 all'88 è stata chiusa 15 volte, dall'88 al 92 è stata chiusa per 4 anni, il fondatore di Birzeit ci ha raccontato nel 73-74 è stato deportato, esiliato per 19 anni, quindi ha raccontato sia parte della storia delle università della Cisgiordania e anche la situazione attuale, quanto è difficile per gli studenti non solo raggiungere l'università, ma anche il syllabus e tutti i curricula che vengono gestiti da Israele devono, diciamo così, passare, essere considerati appropriati dall'amministrazione israeliana. Ha poi raccontato che dall'82 più di 2000 studenti di Birzeit sono stati imprigionati e adesso ancora 150 sono sotto arresto detentivo, 80 di questi sono stati presi dopo il 7 ottobre e appunto sono sotto detenzione amministrativa, 3 sono studentesse e anche 2 docenti da Birzeit sono stati arrestati. Poi ha raccontato di alcuni ragazzi che sempre del campus di Birzeit che facevano resistenza non violenta e sono stati uccisi. Uccisi mentre facevano resistenza non violenta? proprio... Sì, lei ha raccontato, allora ha raccontato due che erano fratelli, ha raccontato che sono stati uccisi, erano appunto studenti, e poi una settimana qualche settimana dopo un altro studente. Di questi non ha detto le circostanze, però invece di Ayar Safi, che è stato ucciso il 15 maggio del 24, ha detto che stava facendo, stava partecipando a una dimostrazione pacifica, non violenta, per i 76 anni dalla Nakba, e è stato ucciso. E, appunto, poi ha raccontato come anche i testi di scuola devono appunto essere considerati appropriati dalla Israeli Association of Civil Rights, e che il termine inappropriato può anche riferirsi all'insegnamento della storia palestinese all'interno dei curricula. Ecco, per quanto riguarda, scusa se interrompo, ma per quanto riguarda il riconoscimento degli studi, delle lauree, Israele riconosce chi si è laureato a Birzeit o altre università palestinesi? Allora, questo lei non l'ha detto, io non ti so rispondere, se non che quando io ho insegnato nel 2013 al Quds Bard, che diciamo così l'unione di Bard College, o meglio è un piccolo dipartimento dove si insegna l'inglese all'interno di Al Quds University, e questo doppio curriculum è stato creato da Bard College insieme al Quds esattamente perché venga riconosciuto il diploma che altrimenti all'epoca non veniva riconosciuto. Io però, questo era il 2013, era al Quds, quindi su Birzeit di questo non abbiamo parlato. Io non so quindi se per andare a lavorare per esempio in Israele la laurea di Birzeit è riconosciuta o no. Poi lei ha parlato anche delle violazioni dei diritti digitali, per cui ha fatto vedere per esempio un post, messaggi che arrivano pressoché di continuo online agli studenti, e per esempio uno ultimo lo leggo, dice: c'erano le lezioni degli studenti all'università di Birzeit, il messaggio era: le lezioni degli studenti dell'università di Birzeit verranno tenute domani, per vostra informazione il voto dei vostri figli, perché questo è stato mandato alle famiglie, un voto dei vostri figli per il partito islamico è considerato una attività di Hamas che ci dà diritto a prendere a fare un'azione legale contro di voi. Quindi questo poi ha brevemente toccato il concetto di scolasticidio e ha parlato, sì, dell'educazione a Gaza. Questo va anche a supporre un voto, una votazione un po' troppo trasparente, cioè che sappiano chi ha votato per chi. Esatto, vero, vero. Benissimo, addirittura che sappiano in anticipo. E così. E poi ha parlato di Gaza, che dal 7 ottobre, del 23, Israele ha ucciso almeno 10.490 studenti e ne ha feriti 16.700, questo per quanto riguarda le cifre date dalla Palestinian Ministry of Education and Higher Education. E poi appunto ha detto che 17 istituzioni di educazione superiore sono paralizzate perché sono state distrutte parzialmente o completamente, 2/3 delle scuole di Gaza sono state distrutte perché ritenute shelter, perché ritenute insomma sì, certo, quello che dicono dicono nella propaganda, sì, certo, esatto. Poi ha detto che più di 600.000 studenti sia di scuola primaria che secondaria vedono negato il loro diritto all'educazione, insieme a 88.000 studenti dell'università e più di 55.000 docenti che non hanno accesso all'educazione. Qui si parla di Gaza. Poi più di 500 insegnanti di scuola e università sono stati uccisi, 378 scuole, ossia il 76% delle scuole, sono state distrutte e altre 117 scuole hanno danni gravi o appunto distrutte in assoluto. E poi ha parlato, si è rivolta agli studenti, ha detto: voi potete fare la differenza. E ha citato anche la frase del professore Rifat Al-Harer di Gaza, che ha detto: se io morirò voi sarete la mia voce. E appunto ha detto ai ragazzi, citando un'altra frase: noi abbiamo costruito queste università dalle tende col supporto dei nostri amici, le ricostruiremo una volta ancora, e questo era uno statement degli accademici palestinesi e degli amministratori delle università di Gaza, emanato a maggio del 2024. E lei ha detto appunto: voi potete fare la differenza. Per me, per esempio, venire in Italia e vedere tutte le bandiere, era la sua prima volta, tra l'altro la sua seconda volta di uscita da Hebron in generale, perché la prima volta era uscita a 16 anni per andare a un campo americano chiamato Seeds for Peace, da cui poi però è stata molto delusa, perché ha raccontato perché ha intercalato molto anche con racconti della sua vita, molto toccanti devo dire. E per esempio qui ha raccontato che a Seeds for Peace aveva incontrato dei ragazzi israeliani e ora però ha visto in Instagram che uno di loro era vicino a un carro armato con il segno della vittoria, e appunto diceva frasi contro i palestinesi. Quindi lei dice: anche questi programmi in realtà non servono a niente, mi hanno deluso molto. E poi appunto però ha fatto vedere un grafico con tutte le dimostrazioni nel mondo in solidarietà con la Palestina, e ha detto: per me appunto venire in Italia, vedere tutte le bandiere palestinesi, le kefia, e soprattutto ha detto avere voi qui di fronte a me in un venerdì sera quando non avete la frequenza obbligatoria, questo a noi dà tanta forza e tanta speranza. E poi ha detto: per favore continuate a fare, ci sono state delle domande devo dire molto interessanti che mi hanno fatto anche pensare che gli studenti si informano molto, domande su per esempio sulla situazione politica, il rapporto Hamas-Fatah, oppure se lei crede veramente a questo cessate il fuoco e al piano di pace, come informarsi adeguatamente, se secondo lei il BDS è importante o no, e lei ha risposto a tutte con grande semplicità ma anche con grande forza, e ha detto: sì, credo il BDS è importante, e vi prego, la cosa che voi potete fare è informarvi, per esempio ha detto: guardate Ion Palestine e poi spargete la voce, informatevi e parlate più che potete, siate in contatto con noi. Lei ha anche detto: venite in Palestina e sarete ben accolti, però ecco, l'importante è che rimaniate in contatto, tanto che poi ha lasciato il suo contatto Instagram e anche il contatto di Youth Against Settlements Instagram, e molti studenti lo hanno fotografato, alcuni studenti l'hanno addirittura aspettata fuori per ringraziarla, e alcune studentesse, e ha detto: ecco, è importantissimo che continuate a parlare di Gaza, di noi, e a non lasciare soprattutto i fratelli e le sorelle di Gaza soli. Ecco, lei appartiene a questo gruppo Giovani contro gli insediamenti, Youth Against Settlements, ma ha parlato anche di resistenza non violenta in qualche maniera, oltre che questi due ragazzi che sono stati uccisi. Allora, ho fatto io una domanda e quindi ha parlato brevemente di quello che fanno. Per lei aveva deciso di parlare di educazione come appunto resistenza non violenta, e ha parlato di un'altra persona che è stata uccisa da poco, che faceva parte di Youth Against Settlements, e appunto ha detto che riguardo alla resistenza non violenta adesso è molto è molto difficile per loro portarla avanti, anche se continuano a farlo, ma che rispetto ha fatto una piccola carrellata rispetto alla prima intifada e rispetto anche a 10 anni fa, quando c'erano appunto i comitati di resistenza popolare non violenta molto attiva. Adesso loro che fanno resistenza non violenta rischiano molto, quindi è molto loro continuano a farla chiaramente credendoci molto, però sono forse più non l'ha detto in questi termini, però è un momento di tale repressione per cui fanno fatica a mettere insieme le forze, ecco, di tutti i movimenti. Mi pare che la risposta, che l'educazione sia la forma di resistenza non violenta oggi più efficace, mi pare che sia la migliore risposta. Esatto. Grazie Margherita. C'è qualche cosa d'altro che ci vuoi dire? No, forse l'unica cosa è di se avete modo contattate Sagas, perché ogni mese fanno delle cose su Gaza, lasciano, vedo, dei materiali, quindi credo che sia importante se potete andare anche a intervistare altre persone, perché vedere come gli studenti, intanto come viene portata l'informazione anche all'interno dell'università, e vedere anche la reazione, i commenti degli studenti può essere molto importante per l'audience di Buongiorno Palestina, io credo. Ecco. Ti ringrazio molto per il vostro lavoro. Ti ringrazio e ho constatato anch'io che gli studenti sono stati molto molto attivi durante e molto attenti e anche molto bravi nell'inglese, perché tutti parlavano in inglese, perché l'incontro si è svolto in inglese. Grazie Margherita, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Trieste, al Teatro Miela, venerdì 21 scorso, è stato consegnato il premio speciale della Fondazione Marco Lucchetta a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Motivazione per aver da subito denunciato che quanto stava accadendo a Gaza e in Cisgiordania si configurava come un crimine di genocidio, e per aver subito tentativi di isolamento intimidatori. Il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta nasce nel 2004, nel 10° anniversario dalla tragica morte dei primi inviati RAI che persero la vita in una missione di lavoro. Il giornalista Marco Lucchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo, della sede RAI di Trieste, uccisi a Mostar Est nel gennaio del 1994 mentre stavano realizzando uno speciale TG1 per proporre i bambini vittime della guerra balcanica quali candidati al premio Nobel per la pace. E solo 2 mesi dopo un altro operatore triestino, Miran Hrovatin, assassinato in Somalia assieme alla giornalista Ilaria Alpi. La Fondazione da oltre 30 anni difende il rispetto dei diritti umani e si è impegnata a salvare bambini e bambine. Il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta si è tenuto nelle giornate dal 21 al 23 novembre. Tema della giornata del 21 è stato il diritto alla vita delle bambine e dei bambini palestinesi. Relatori dell'incontro Francesca Albanese e Paolo De Stefani, docente di diritto internazionale all'Università di Padova. Ha moderato Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Riportiamo parte degli interventi della premiazione. Troverete il link al video sulla pagina blog della trasmissione di oggi. Daniela, perché proprio a Francesca Albanese? Un po' l'abbiamo detto prima, no? Perché la Fondazione cerca di difendere e di proteggere i diritti umani di tutte le persone, in realtà, ma dei bambini in particolare, da 31 anni. Io adesso vorrei leggere proprio la motivazione ufficiale. La Fondazione ha deciso di conferire il premio 2025 per meriti umanitari a Francesca Albanese, per aver da subito denunciato che quanto stava accadendo a Gaza e in Cisgiordania si configurava come un crimine di genocidio, come è stato confermato dalla Commissione Speciale dell'ONU il 16 settembre 2025, opera che le ha procurato un isolamento intimidatorio. Noi riteniamo che sia necessario oggi più che mai difendere il lavoro per la ricerca della pace che svolgono le Nazioni Unite attraverso le proprie istituzioni, che troppo spesso vengono derise da chi basa il proprio agire sulla violenza. L'opera di Francesca Albanese è uno straziante grido di allarme sul crollo del diritto internazionale con il quale l'umanità, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ha cercato, purtroppo senza riuscirci, di voltare pagina dopo le tragedie delle due guerre mondiali e l'orrore del genocidio degli ebrei. Buonasera a tutte e tutti. Innanzitutto lasciatemi esprimere la mia commozione e il mio ringraziamento più profondo nei confronti della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo per il conferimento di questo premio che significa moltissimo, significa molto per il premio in sé, ma anche per me, per il mio lavoro. Grazie per le parole che ha detto, che ha usato, ma significa tanto anche per i palestinesi che oggi vivono il momento più drammatico, più doloroso, una vera minaccia esistenziale per ciò che resta della loro presenza in quel poco che resta della loro terra, il territorio palestinese occupato. Poco fa ci interrogavamo su cosa ci riserva il futuro, su cosa riserva al popolo palestinese e anche agli israeliani. È difficile intravedere la speranza in questo momento, è un momento oscuro, è un momento di grande incertezza, ma anche perché gli strumenti per camminare verso la pace ci sono, anzi ce n'è uno, è il diritto. Non si può prescindere dal diritto, anche la comunità internazionale è basata su un contratto sociale, ci si è dati delle regole per preservare la pace, per prevenire i conflitti, e invece sembra proprio che siamo ritornati ad uno stato delle cose per cui il conflitto è un modo di intessere le relazioni internazionali, e non ce lo possiamo permettere. Per i palestinesi, per chi vive con loro, attorno a loro, per chi purtroppo li opprime, ma anche per tutte e tutti noi. E è questo il crollo del diritto internazionale? Spero di no. Ancora intravedo la speranza, la intravedo nella mobilitazione globale che c'è stata e continua ad esserci, e questo paese è stato davvero esemplare. Voglio riconoscere innanzitutto i più giovani, le studentesse e gli studenti che già dalla fine del 2023 con coraggio, senza timore, si sono fatti avanti, si sono battuti, hanno messo davanti a tutto il loro corpo chiedendo il rispetto della legalità prima di tutto nei confronti delle loro università, ma poi chiedendo anche il supporto di tutte e tutti noi. Questo supporto c'è stato nei confronti anche della flottilla. È importante, è importantissimo in questo momento continuare a tenere vivo questo movimento, a renderlo più strategico, sempre più pacifico, perché questa è l'unica via che abbiamo verso la pace. La pace si costruisce con la pace. Grazie. Grazie, ed è proprio sul diritto, sul diritto internazionale che insomma, abbiamo costruito anche la conversazione che seguirà. E io invito Francesca Albanese ad accomodarsi e chiamo a raggiungerci il professor Paolo De Stefani, docente di diritto internazionale all'Università di Padova del Centro per Antonio Papisca. Benvenuto. E il collega Duccio Facchini, giornalista, direttore di Altra Economia, che ringrazio moltissimo per aver accolto il nostro invito a condurre e a moderare la conversazione. Buonasera, e tutto quello che hai raccontato in questi anni. Partiamo da qui. Sì, allora, devo dire che quando ho cominciato il lavoro di relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato, avevo già una visione chiara di quanto i bambini fossero vittima diretta e intenzionale dell'aggressione israeliana che insita nell'occupazione. Pensate a cifre che si conoscono e sono note ormai da quasi 20 anni, da quando le Nazioni Unite in modo sistematico hanno cominciato a raccogliere i dati, e ce n'è uno spaventoso: oltre alle morti costanti di bambini a causa di arma da fuoco, quello degli arresti e delle detenzioni che si aggira tra i 600, si aggirava prima dell'ottobre 2023 tra i 600 e i 700 bambini all'anno. Stiamo parlando di bambini di un'età che si aggira attorno ai 12, 14, 16 anni, bambini che vengono tenuti spesso in isolamento per una media di 16, 20 giorni senza mai vedere un genitore o un legale. E questo è sconvolgente. Mi sono ritrovata diverse volte ad assistere ai processi nei confronti di questi bambini, minacciati da sentenze di detenzione fino a 20 anni per aver tirato pietre a veicoli in movimento, quelli dell'esercito che entravano a tutte le ore nei campi rifugiati o nelle città. Queste sono cifre agghiaccianti, se si pensa anche a quanti bambini siano stati uccisi tra il 2007 e il 2023, il settembre 2023, 1200 bambini solo a Gaza, in occasione, questi sono i morti da guerra, perché Israele aveva già violato il diritto internazionale, aggredendo una parte del territorio che è occupata, quindi commettendo un grave illecito, una parte del territorio che era già vittima di una punizione collettiva, perché l'assedio che Israele ha mantenuto dal 2007 sulla striscia di Gaza era, dal punto di vista legale, una punizione collettiva e quindi un crimine di guerra. E non si contano i bambini morti a causa di mancanza di cure. La striscia di Gaza soffriva già grandi mancanze dal punto di vista sanitario prima dell'ottobre 2023, quindi questa situazione mi era chiara. Però quando ho cominciato a lavorare da relatrice speciale, la mia esperienza, avevo vissuto 3 anni lavorando per le Nazioni Unite nell'ufficio legale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati palestinesi, avevo esperienza diretta, eppure non avevo capito i problemi sistemici che affliggevano quella terra dal punto di vista dell'occupazione, ed è ciò di cui mi sono occupata. Il mio lavoro è documentato, di quello si dovrebbe parlare quando si parla appunto di me, del lavoro che ho fatto, che poi, visto in retrospettiva, aveva già in sé dal 2022 un campanello d'allarme, che appunto si stava mirando all'infanzia come il germe del popolo, il cui diritto all'autodeterminazione è il diritto di esistere su una terra come popolo, godendo dei propri diritti sociali, civili, politici, economici, culturali. E però ho dedicato un rapporto in particolare, il terzo rapporto, dopo aver investigato le pratiche detentive, ho parlato di carceralità diffusa nel territorio palestinese occupato a causa non solo dell'alto numero di detenzioni nel corso di 57 anni Israele ha arrestato 800.000 palestinesi, appunto con cifre sconvolgenti quando si parla di minori, e questo perché c'è una legislazione, c'è la legge marziale per i palestinesi ed è facilissimo essere arrestati. Non mi dilungo su questo punto, però già lì e già pensando che ci fosse una carceralità non limitata all'esperienza dietro le sbarre, ma diffusa, nel senso che anche da liberi i palestinesi vivono da privati della libertà personale, perché ci sono le restrizioni fisiche, le colonie, i checkpoint, le strade interrotte, centinaia di chilometri di strade interrotte, quindi veramente i palestinesi vivono in delle isole ed è complicatissimo svolgere la propria vita. Quindi è una popolazione altamente, è la popolazione più spiata e sorvegliata al mondo, ed in più la loro situazione è aggravata dal fatto che qualsiasi istanza di vita dipenda da un permesso dato o concesso dall'occupazione militare per costruire una casa, per costruire una scuola, per aprire un'attività economica, per cambiare residenza, per iscriversi ad un corso di specializzazione. Quindi era una vita che si capiva di grande difficoltà. E il mio terzo rapporto, che è passato quasi in sordina, inosservato, perché è stato presentato all'Assemblea Generale all'indomani del 7 ottobre, il 22 ottobre del 2023, portava sull'infanzia. Ho trascorso 2 mesi e mezzo nell'estate del 2023 collegandomi ogni giorno da remoto con gruppi diversi di bambini, ascoltando le loro testimonianze. Volevo veramente che quella relazione avesse la loro voce, ed è una voce spaventata, terrificante. Il rapporto, scusatemi, aveva come titolo Unchilding, una parola che significa proprio privazione dell'infanzia, e dava la sensazione proprio della paura che abita il cuore di questi bambini. افتحوا واسألوا افتحوا واسألوا عن مشاريع السلام عن مشاريع السلام تقفز الصرخة من بين العظام لا لا لا مليون لا الشعب لا لا لا لا تخون الشعب لا لا تخون الشعب لا لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا. Mentre Francesca Albanese si prende giustamente un attimo, lasciamo lì, facciamo un asterisco, poi ci torniamo, ma passo la parola al professor De Stefani. È fortissima la tentazione, insegnando lei a Padova diritto internazionale, chiederle se davvero il diritto internazionale vale fino a un certo punto, ma non scadrò in questa battuta prevedibile. Seriamente, prima di salire su questo palco, si ragionava con la relatrice speciale rispetto alla inquietante epilogo che vi è stato anche a livello di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rispetto alla cosiddetto piano di pace Trump, generosamente e anche un po' orwellianamente definito tale. Dalla sua prospettiva, che si misura quotidianamente sotto il profilo accademico con la materia, che tipo di stagione sta attraversando, più che il diritto internazionale, perché poi è diventato anche un po' un ritornello comodo, no? Quello di dire il diritto internazionale è in crisi, come se fosse un soggetto che si alza la mattina e si sente poco bene, quanto invece sulla responsabilità degli stati nel sabotarlo scientemente. Qual è la sua visione, soprattutto quali possono essere gli strumenti a disposizione per concreti per fermare questa deriva? No. Grazie della domanda, grazie per lo stimolo, grazie alla fondazione che mi ha invitato e sono ovviamente molto contento e orgoglioso di essere insieme a Francesca Albanese, tra l'altro sul palco quassù, in maniera assolutamente non meritata. Tutti quanti dicono che il diritto internazionale è morto. Noi continuiamo ad avere nei nostri corsi che facciamo su diritto internazionale e diritti umani, una richiesta di studenti sempre maggiore. Il corso di scienze politiche più numeroso d'Italia è quello che abbiamo noi, che si intitola Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani. 700 studenti della triennale iscritti ogni anno. Un nuovo dottorato di interesse nazionale partito quest'anno, centinaia di domande di ragazzi italiani, ma di altre parti del mondo anche, che vogliono studiare queste cose, perché si rendono conto che rispetto al caos che molti nostri governanti stanno scatenando nel mondo, una risposta ci deve essere, e questa risposta non può che venire dalla società civile in questo momento. E abbiamo visto vari esempi, proprio diciamo stimolati dalle vicende di Gaza e anche, se posso dire, dai rapporti di Francesca Albanese, che hanno diciamo tolto una buona dose di ipocrisia a quello che stati, osservatori, professori, eccetera, avevano, diciamo, dalla posizione insomma che stati e altri soggetti internazionali avevano usato per descrivere quello che succede nei territori occupati. Un forte elemento di ipocrisia, un forte elemento di negazione dei due, diciamo, valori che sono alla base di qualsiasi diplomazia che abbia come obiettivo i diritti umani, non come strumento da manipolare, ma come obiettivo la promozione dei diritti umani. Una diplomazia che voglia promuovere i diritti umani deve rispettare due cose: i fatti, i numeri, le realtà umane che stanno dietro a quei numeri. I fatti, quindi, questo è anche un contesto in cui ci sono tanti giornalisti e i giornalisti devono rispettare i fatti. E l'altra cosa che deve essere al centro di una diplomazia per i diritti umani è il diritto. I diritti umani sono una manifestazione, sono un'espressione del diritto internazionale in questo caso. Da 80 anni a questa parte il diritto internazionale non si occupa più soltanto di rapporti tra stati, si occupa anche di diritti umani. Si occupa del diritto dei popoli, si occupa del diritto delle minoranze, il diritto delle donne. Ieri era la giornata mondiale dei diritti del bambino, la settimana prossima, il 25, c'è la giornata mondiale sulla violenza contro le donne. Sono giornate e temi che sono ormai parte integrante del diritto internazionale, da come, nel modo in cui lo abbiamo costruito, è stato costruito negli ultimi decenni. Certo che se guardiamo il diritto internazionale del XVIII secolo, del XIX secolo, quello che ha sostenuto l'espansione coloniale dei paesi europei in tutto il mondo, sì, lì siamo in un altro pianeta, ma pensavamo che quel pianeta l'avessimo abbandonato. Pensavamo che proprio dal momento in cui sono sorte le Nazioni Unite e sono sorti tutti quei meccanismi di diritto giuridici che si sono dati il compito di promuovere non solo i rapporti tra gli stati ma anche i diritti umani, pensavamo appunto che questo cambiamento di paradigma, questo cambiamento di prospettiva fosse consolidato. Ebbene, ci rendiamo conto da un po' di anni a questa parte che non era poi così consolidato, che lo strato di ipocrisia con cui gli stati, personaggi importanti del panorama internazionale, pagavano il loro tributo, no, alla retorica dei diritti umani, quello strato era tutto sommato più sottile di quanto pensavamo ed è emerso in questi ultimi anni, in particolare, vabbè, noi diciamo intorno alla presidenza Trump, prima e secondo mandato, ma voglio dire l'evidente contrarietà a qualsiasi regole di diritto internazionale con cui un altro membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Federazione Russa, ha invaso e ha trasferito centinaia di bambini, ha cancellato o tenta di cancellare l'identità di milioni di persone nell'area dell'Ucraina, ecco, questo è una negazione di qualsiasi progresso, insomma, che avessimo pensato di aver realizzato nel contesto del diritto internazionale. E poi, di questi giorni, purtroppo anche le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, devo dire, non necessariamente l'Assemblea Generale che rappresenta tutti gli Stati, ma il Consiglio di Sicurezza, dove alcuni, diciamo, paesi particolarmente in vista, diciamo, hanno un peso sproporzionato, il Consiglio di Sicurezza ha adottato risoluzione che sostanzialmente mette un timbro, no, di conformità al diritto internazionale, dicono loro, del cosiddetto piano di pace Trump su Gaza. Ecco, una cosa di questo genere veramente si fa pensare ad un ritorno al passato, un ritorno al passato che però è inaccettabile e non è accettato. Non è accettato da gran parte della comunità internazionale, come si vede nelle votazioni che vengono fatte all'Assemblea Generale, non è accettato dalla società civile internazionale. E non è accettato neanche dalla parte, come dire, più avanzata e più consapevole di chi dentro le Nazioni Unite, dentro le organizzazioni internazionali, nel contesto del multilateralismo, come si dice, no? Cioè, del modo di operare che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha cambiato la natura un po' del diritto internazionale, non è accettato da chi in questo quadro di multilateralismo cerca di far progredire le norme sui diritti umani, le regole sui diritti umani e così via. E Francesca Albanese è un esempio di queste, è una delle persone che all'interno delle organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ma non solo le Nazioni Unite, hanno questo ruolo di promuovere quella che appunto chiamavo la diplomazia per i diritti umani, la diplomazia dei diritti umani, che ripeto non manipola i diritti umani per altri obiettivi, nascondendo i fatti e diciamo aggirando il diritto, ma cerca di usarlo per far progredire questo modello, no, questo piano, usare il diritto per favorire le persone, per promuovere il progresso sociale. Non è la sola, io ho avuto la fortuna in quest'ultimo mese, non so come mai, di incontrarne addirittura tre di relatori speciali delle Nazioni Unite, quella sulla libertà religiosa, quella sul diritto all'abitare, ma ce ne sono una sessantina che hanno dei mandati presso le Nazioni Unite, il Consiglio per i diritti umani, o per temi, per materie, oppure su singoli stati. Sono persone che operano nel contesto dei diritti umani, nel multilateralismo, per far conoscere i fatti e per favorire l'applicazione del diritto internazionale, che c'è, le norme che già ci sono. Certo, alcuni di loro ogni tanto elaborano anche delle teorie, ma le teorie servono per, possono essere discusse naturalmente, possono essere più o meno brillanti, più o meno, possono anche irritare magari qualcuno, no? Però le teorie servono per capire meglio i fatti e capire meglio in che modo il diritto va applicato, attraverso, in funzione di quali obiettivi, in funzione di quale finalità, no? E non ci sono soltanto i relatori speciali, ci sono anche le istituzioni più paludate del diritto internazionale. La Corte Internazionale di Giustizia ha dato degli scossoni recentemente, che forse non ci aspettavamo, gli scossoni, diciamo, che fanno progredire, che possono far progredire la comprensione di certe dinamiche internazionali e il modo in cui il diritto internazionale va applicato. è la Corte Internazionale di Giustizia a cui si è rivolto Sudafrica e tanti altri stati per far accertare l'eventualità di un genocidio in corso nei territori palestinesi e in Gaza in particolare. È la Corte Internazionale di Giustizia che l'anno scorso, luglio 2024, ha emesso un parere in cui si dice chiaramente cose che tutti sappiamo ma che talvolta non vengono mai dette, cioè che lo Stato palestinese è stato aggredito, perché se esiste uno Stato è uno Stato in condizioni di occupazione militare, che il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese non è mai stato applicato, che le condizioni in cui l'occupazione avviene nei territori occupati appunto da parte di Israele è in larga parte incompatibile con qualsiasi norma di diritto umanitario. Il diritto umanitario è anche l'idea stessa di umanitario, i valori dell'azione umanitaria sono respinti e contraddetti dalle azioni di tanti stati nel mondo, in Ucraina, in Sudan e anche ovviamente a Gaza, nei territori occupati. Questa è una cosa che ci deve far pensare molto, perché l'idea di avere un'azione umanitaria, quindi volta a proteggere l'umanità che c'è in ciascuno di noi e in ciascuno di loro, che sia un'azione indipendente, neutrale. Ecco, tutti questi principi, questi valori che tutti quanti insomma dovremmo condividere, ecco, questi sono espressamente negati nei fatti e anche nella teoria da certe azioni che vediamo diciamo ogni giorno. Ecco, e poi anche qualche settimana fa la stessa Corte Internazionale di Giustizia ha espressamente detto, con un altro opinione diciamo rivolta alla comunità internazionale, che escludere l'UNRWA dall'azione umanitaria appunto in Gaza e nei territori palestinesi è illegale, è una cosa che non può fare, che Israele non può fare, e Israele piuttosto ha il dovere di reintegrare tutti gli attori umanitari che in questi mesi, in questi anni ha cacciato, il cui lavoro è stato reso impossibile. Quindi, per concludere, è vero che il diritto internazionale in questo momento sta subendo un attacco da parte dei rappresentanti dei paesi più potenti del mondo, non possiamo negarlo, però i paesi più potenti del mondo sono appunto coloro che il diritto internazionale è chiamato a mettere in riga, e contro questa violenza, contro questo diciamo strapotere, l'unico strumento che abbiamo a disposizione pacifico è quello dei fatti ed è quello del diritto, e quindi nel nostro caso in particolare quello del diritto internazionale. Grazie. Grazie. Così al centro della storia, dell'impegno della Fondazione, credo che questo richiamo al valore dei fatti e anche al veleno della manipolazione sia davvero di ispirazione quotidiana. torno da Francesca Albanese, ci eravamo lasciati sulle 60.000 case distrutte in meno di 55 anni. Per recuperare un po' di tempo e lasciandoti naturalmente concludere il ragionamento, però ti volevo chiedere di arrivare, cioè di aiutarci anche a comprendere la strettissima attualità in questo clima da tutto è archiviato, sempre facendo riferimento alla nostra attesa prima di salire su questo palco, riflettevamo su questo richiamo alla ricostruzione di Gaza e tu mettevi in guardia dal fatto che ricostruire che quelle distruzioni, quelle impronte invece sono funzionali o dovrebbero essere funzionali a un accertamento delle responsabilità, anche delle responsabilità di stati terzi, con riferimento alle demolizioni controllate. Ad esempio, l'Italia, come abbiamo raccontato su Altra Economia, ha una responsabilità gravissima nell'aver esportato, camuffandoli da prodotti agricoli, cordoni detonanti e nitrato di ammonio, che sono in realtà serviti all'esercito israeliano per tirar giù le case dei Gazawi in questi mesi. Ecco, come leggere questa attualità invece da un nuovo vento pacificatore che si vuole a tutti i costi imporre sulla testa delle persone? Sì, quello che stavo raccontando è appunto la realtà che io ho documentato, che avrebbe già dovuto suonare come un campanello d'allarme, un segno precursore per intelleggere quello che sarebbe accaduto di lì a poco, nel senso, quando si colpisce l'infanzia, e questa è una cosa che tanti stati riconoscono, per esempio nel procedimento per genocidio che lo stato del Gambia ha iniziato contro Myanmar, ci sono tanti stati europei che hanno partecipato dicendo: ma guardate come hanno colpito i bambini Rohingya, questo è un segno. Quando si colpisce l'infanzia è un segno che c'è l'intento genocidario. Ed è appunto la voce dei bambini palestinesi è stata completamente obliterata, il loro dolore è stato amplificato durante questi 2 anni di genocidio. L'ho documentato per 2 anni, è stato un lavoro doloroso che mi è costato tanto, non solo per quello che appare dalle minacce, dalle misure persecutorie prese nei miei confronti, però è stato proprio il lavoro di voce narrante di quei fatti, di quei dati, alla luce della normativa, che è stato doloroso, perché c'era il dolore di guardare un popolo aggredito nella maniera più turpe, ma nel silenzio normalizzante e complice della comunità internazionale, con pochissime eccezioni. Vado al cuore della questione che mi hai posto, circa la ricostruzione. È già problematico che di ricostruzione si parli nel momento in cui si continua ad uccidere e ad affamare la popolazione di Gaza, perché il fuoco non è cessato affatto. Sono morti tra i 250 e i 300 palestinesi a Gaza dal mese scorso, in cui è stato dichiarato il cessate il fuoco, che è stato più una parola d'ordine per tutti noi, per spostare l'occhio altrove. Ma è tanto più grave che si parli di ricostruzione affidandone la gestione ad un'amministrazione che io ho definito fantoccio, perché di questo si tratta, nelle mani degli Stati Uniti, che sono complici dei crimini che Israele ha commesso. E non lo dico in maniera iperbolica, lo dico alla luce dell'ultima inchiesta che ho presentato all'Assemblea Generale il mese scorso. Gli Stati Uniti e la Germania da soli hanno fornito ad Israele il 95% delle armi. L'Italia è terza. Certo, c'è un bello scarto rispetto agli altri, ma è gravissimo lo stesso. Ed è per questo che ho definito ciò che è accaduto a Gaza un crimine collettivo. Adesso parlare di ricostruzione è problematico da tanti punti di vista, però immaginate quanto sadica sia questa riflessione alla luce del fatto che Gaza è la scena di un crimine. Non si contano le fosse comuni in cui sono ammassati decine di migliaia di morti, ma poi soprattutto mancano alla conta decine di migliaia di persone che sono sparite, non si sa se sono sotto le macerie, non si sa se sono esplose, non si sa se sono state catturate e sono ancora a languire nelle prigioni israeliane, ma non si può parlare di ricostruzione, non si potrebbe parlare di ricostruzione portata avanti in questo modo cinico e quasi da speculatori finanziari, quando appunto lì bisogna preservare la memoria. Se si parla di ricostruzione lo si deve fare nel rispetto dell'anima che è stata trafitta a Gaza, e quindi io mi trovo in una situazione di grande dilemma in questo momento, perché dal punto di vista giuridico le decisioni del Consiglio di sicurezza sono vincolanti, però come ha detto qualcuno, tanto le violano tutte, speriamo che sia violata anche questa. Speriamo veramente che la comunità internazionale si rinsavisca, perché ecco, appunto, sarebbe mettere una pietra tombale su una scena di un crimine che è ancora viva e ancora attiva. شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم قاومت وكنت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين قاومت وكنت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين أطفالك يدم يدم شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين بشموخك أنت صفعت رقاب المهزومين والمنتظرين بيأس عود صلاح الدين كنت الأسطورة بل كنت جنين جنين جنين شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم وبيوت هدم كاميرات العالم تحصي نفس المحتضرين وفضائيات العرب تغني لفلسطين كاميرات العالم تحصي نفس المحتضرين وفضائيات العرب تغني لفلسطين وجيوش الأمة في وذنها طين طين طين شلالات الدم وبيوت هدم شلالات الدم. Era questa la nostra ultima notizia, e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 10 dicembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Wahdi watani safqa safqa safqa chao chao chao rah tirja baladi kulha rah tirja w rah idul lil ihtilal sha'b al ahrar sahib al qarar safqa chao safqa chao safqa chao chao chao